spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ancora buona giornata da Irene Zerbini. C'è un solo modo per progredire e oggi lo prenderemo in esame dalle 9 in poi, cioè andare oltre il senso comune, spezzare il sentiero tracciato, cioè tutti quelli che si sono poi rivelati pionieri in qualche area del progresso hanno fatto, fanno tutti i giorni, faranno in futuro così. E nelle scelte della vita quotidiana noi siamo sempre combattuti e tra la voglia di cambiamento e il comfort dato dalla routine invece della ripetizione. Basta guardarci intorno, vorremmo cambiare lavoro, casa, situazioni, e poi invece spesso ci ritroviamo a percorrere il sentiero che conosciamo bene. Siamo masochisti addirittura in alcune scelte che addirittura ci danneggiano, e lo sappiamo benissimo che ci danneggiano. Si pensi alle scelte sbagliate dal punto di vista dell'alimentazione, alla scelta del fumo. È stato provato da coloro che hanno fatto campagne di dissuasione che spesso l'informazione razionale non serve a far cambiare comportamento, e più che l'informazione sui danni, per esempio, causati dal fumo ai polmoni, ha funzionato come dissuasore segnalare la perdita di alcuni vantaggi estetici, dall'ingiallimento dei denti alla pelle. Quindi ci siamo chiesti: ma cos'è che ci fa veramente decidere? Concentriamoci sul cambiamento, quando avviene, quando necessario, e in un caso, un episodio isolato della vostra esistenza, quando avete davvero cambiato qualcosa? Qual è stata la molla? Un incontro, una testimonianza, una persona, dei dati? Questo è un tema legato a doppio filo all'utilità dell'informazione, naturalmente, anche degli organi di informazione, dei numeri, perché prendendo in esame anche la mobilità elettorale si vede che i cambiamenti di voto tra un'elezione e l'altra, prendendo per esempio le politiche o le amministrative, cioè prendendo a scadenze certe lo stesso tipo di elezione, quando ci si sposta, quando l'elettorato si sposta, lo fa in percentuali veramente ridotte. E quindi sembra quasi che una volta scelta, diciamo così, la parte con cui e in cui stare, è difficile per il nostro cervello cambiare e per il nostro comportamento di conseguenza. Questo è qualcosa che prenderemo in considerazione dalle 9 in poi con i nostri ospiti, e tra i nostri ospiti ci sarà anche Massimo Marchiori, un ex ricercatore del MIT di Boston, professore associato di informatica all'Università degli Studi di Padova, che è quel matematico, è quel ricercatore tra i primi 100 ricercatori più innovativi del mondo, un italiano, che ha creato un algoritmo alla base poi del motore di ricerca Google. E lui ha delle cose molto interessanti da raccontarci anche sull'innovazione tecnologica. Prima però andremo in Calabria, dove ancora una volta abbiamo assistito a un disastro evitabile. Il pesantissimo danno è stato in questo caso economico, fortunatamente non ci sono state vittime, però maltempo, piogge abbondanti sono la causa scatenante di un disastro che ha alla radice principalmente un territorio gestito male, e cercheremo di capire come evitare che in futuro si ripeta ancora una volta tristemente quello che abbiamo visto in questi giorni. Prima però andiamo a incontrare i nostri amici corrispondenti. Visti da fuori. Da Verden, Antoinette. Da Verden, buongiorno Irene. Sì, la pronuncia bulgara veramente scadente. Oh. Antoinette Nikolova è la corrispondente bulgara in Italia. Attenzione, non solo per raccontare l'Italia, ma è corrispondente, vive qui, ma racconta tutta l'Europa. E quindi tu, possiamo dire che per Life Economist, questa rivista dell'Economist che esce in cirillico, segui veramente tutte quelle estenuanti riunioni notturne di Bruxelles, per esempio. E le questioni dell'Unione Europea, che magari detto così suona molto noioso, però ha un grande impatto sulla nostra vita quotidiana e anche a lungo termine. Perché dici che suona molto noioso? A me suona invece molto interessante, e direi che questi vertici notturni sono anche l'occasione per osservare i leader europei anche quando sono un po' sotto tiro, quando abbassano un po' le difese. Dal tuo punto d'osservazione, cosa sai dirci della psicologia delle diverse nazioni? La psicologia delle diverse nazioni, soprattutto quest'anno, quando ci siamo trovati di fronte a esprimere solidarietà o magari a punire un paese europeo, sono stati molto evidenti, perché c'è stato un riscontro tra i cosiddetti paesi della nuova Europa e l'Europa del Sud, in questo caso Grecia, Italia. Allora le differenze sono che c'è un gruppo dei paesi dell'est, dove provengo anch'io, che è molto agguerito di raggiungere i risultati. Invece l'altra parte dell'Europa è un po' più stanca e un po' più indifferente magari a cambiamenti che possono arrivare da Bruxelles, dove si può decidere, da roaming, dalle tariffe telefoniche che ci riguardano tutti quanti ogni giorno. Però va un po' così più sull'inerzia di un sistema già consolidato. E quindi tu hai visto una certa stanchezza, poi hai visto un'area di solidarietà dei paesi del Mediterraneo, possiamo definirli così, del sud Europa? Sì. E un filo comune tra i servizi, tra i paesi dell'est europeo. I paesi dell'est europeo in questo momento sono molto interessanti, perché ormai sono decine di anni che sono entrati a far parte dell'Unione Europea, però ancora se uno si fa il giro in questi paesi vede che c'è questa energia che sta nell'aria, la senti un po' dal spirito pioniero di correre, di raggiungere, di costruire, di fare le strade, di far funzionare il sistema. Invece l'Europa, vecchia Europa chiamiamola, inclusa l'Italia, che ha conquistato anche le conquiste sociali, rimane un po' sul fatto di conservare questi vantaggi sociali che sono stati costruiti, e magari rimane un po' indietro nel tempo, perché visto che stiamo bene qui, abbiamo buoni servizi, perlomeno in teoria, chi di più, chi di meno, abbiamo più o meno un sistema protettivo, è più difficile accettare l'idea che di questo qualche cosa ci si può rinunciare. Invece i paesi dell'est sono un po' più disposti a rinunciare, forse perché vengono di una realtà di grande rinuncia per tanti anni. E quindi tu avverti questa sorta di decadenza della vecchia Europa, come l'hai definita, un po' di stanchezza e decadenza. Sì, visto che siamo qui in Italia, un po' come se Roma, l'antica Roma, che ha avuto tanti vantaggi, il sviluppo, e sta un po', si vive un po' la sua grande bellezza, come se è data per scontata. Come sia data per scontata. Sempre. Sì. Sì, è un rimprovero molto costruttivo il tuo. Hai scritto anche pezzi su questi diversi aspetti e della vita e del modo di affrontare le problematiche in Europa per il Life Economist? Ecco, io cerco di spiegare magari un punto di vista un po' sociopolitico, perché i paesi più sviluppati industrialmente sono un po' anche più conservatrici nell'andare a fare il cambio del sistema proprio. Invece per un paese dell'est europeo, prendiamo spunto dalla crisi greca, era molto più difficile capire perché bisogna difendere baby pensioni in Grecia, per esempio. Invece per un italiano è un po' più semplice. Tu hai registrato una solidarietà diffusa nella popolazione italiana verso le questioni greche, che invece non hai trovato nei paesi dell'est, Bulgaria e non solo. Assolutamente, io stavo a Bruxelles a seguire, come dicevi tu Irene, queste lunghe riunioni, questo scontro, e quando rientravo in Italia mi trovavo proprio in dibattito con gli amici, anche ben informati, perché gli italiani in questo hanno fatto una scelta anche emotiva, perché qui siamo anche un paese del sud, perché i greci sono simpatici, come dicono i greci, noi lavoriamo per vivere, no, al contrario, come fanno quelli del nord. E l'italiano simpatizzava molto nettamente, anche alcune testate apertamente, invece nel Bruxelles si discuteva molto sui numeri, su se dare una concessione adesso, che cosa costerà ai nostri figli in domani. Ed è stata una netta differenza, però ecco, io me lo spiego come una scelta, una posizione presa per l'emozione, perché una cosa che in Italia la vivo è l'emotività, che per carità è una cosa positiva, magari delle volte vai in un riscontro con il paese pragmatico del nord Europa, però il compenso ha creato tante altre cose nella vita che ce la fanno godere. Non è, la tua mi sembra una posizione abbastanza salomonica, nel senso stai in mezzo, non giudichi ma riporti, e beh, questo non a caso scrivi per l'Economist, forse uno degli esempi di informazione internazionale migliori che c'è, con articoli ancora anonimi dove nemmeno si vede la firma del giornalista, ma decisamente ricchi di informazione e ricerca prima di una stesura, diciamo così. E quali altri aspetti dell'Italia, al di là di questa ultima presa di posizione sulla Grecia, hai trattato nel corso della tua permanenza qua? L'ultimo argomento è stato un argomento che è un po' ha emozionato la stampa internazionale, di conseguenza come ecco anche la stampa italiana, e un po' il disagio che ha vissuto la capitale. E siccome anche io un pochino mi sento romana, l'ho sofferta anche io, però cercando ecco di essere obiettiva, che però cercando di essere obiettiva mi sono trovata da parte, perché in questo momento per esempio mi trovo in Sardegna e già qui trovo una differenza culturale tra Roma e Sardegna, perché qui è molto pulito, sarà perché si sa che c'è una stagione turistica e quindi si deve dare il meglio, però la vedo la differenza perfino nello stesso territorio italiano, e perciò ho trattato la questione Roma, i disagi di Roma, perché era una cosa abbastanza che ci ha presi. Sì, sì, sì, che balza all'occhio soprattutto. Come italiani, sì. Come Italia ha scatenato anche delle guerre fratricide su chi fa meglio. Però al di là degli aspetti naturalmente politici legati anche all'amministrazione della grande città, rimane il fatto che quell'articolo pubblicato sul New York Times, che ha con tanto di foto, che ha scatenato questa caccia diciamo così, al responsabile su questo degrado romano, è arrivato, cioè l'hanno segnalato molte volte anche i tuoi colleghi, un po' tardi, nel senso che non è che ci sia stato poi questo peggioramento così consistente negli ultimi mesi, è già da parecchio tempo che per le strade di Roma questi problemi venivano registrati, ma di colpo finire all'attenzione, sotto i vostri occhi, di voi corrispondenti italiani che rimbalzate le foto di Roma sul resto del mondo, sulle testate del resto del mondo, ha urtato più di una sensibilità, e forse chissà sarà la volta buona che finalmente si agisce. Questo è un po' il vostro compito anche come stampa estera, no? In qualche modo stimolare, sì, il sistema, stimolare. Sì, ecco, vedi Irene, se ne era parlato, anche altri giornali italiani hanno preso un po' il tema in considerazione, però l'Eco l'ha fatto una grande testata internazionale, sì. E forse qui gli italiani di conseguenza hanno reagito, perché un po' ci si sente esposti e giudicati dagli altri, e perché un po' si è visto che può avere una conseguenza anche a livello internazionale, perché dà un'immagine alla città e al paese, in questo caso, che comunque è la capitale, che può danneggiare a lungo termine. E in questo caso la testata internazionale è stato un correttivo, un grido d'allarme, ma non tanto perché sono gli stranieri che ci insegnano, ma perché è come se hanno acceso una lampadina rossa per dire: beh, Roma è una città, Italia è un paese che vive dal turismo, quindi bisogna dare un'immagine un po' più decente. Beh, certo, poi c'è stato anche chi ha pubblicato i container trascinanti immondizia di New York, cioè gli italiani che vivono negli Stati Uniti, che si sono sentiti offesi dicendo: guardate che qui non è tutto oro ciò che luccica, hanno risposto con una pagina Facebook, ed è un palleggio delle responsabilità che non porta però alla risoluzione. Io credo che sia sempre invece molto molto utile e costruttivo quello che voi fate, segnalandoci lacune e soprattutto problemi che potrebbero essere risolti, ma i quali, come hai visto tu, noi italiani, ma questo vale per tutti i paesi, ci siamo abituati. Questo vale per tutte le nazioni, perché sempre più spesso sono coloro che le osservano da fuori a spingere verso una direzione. Parlaci un po' della Bulgaria. Oltre a Sofia, quali sono le grandi città? Bulgaria ha una storia millenaria, essendo un paese all'incrocio, cioè i Balcani, dove sono passati varie culture, un po' rispecchia questa mescolanza di culture, religioni, e a parte Sofia ha delle bellissime montagne, si dice che è un piccolo paese in cui puoi trovare tutto, mare. C'è una leggenda che dice che Dio ha dato la bellezza dell'Italia, della Francia, alle montagne della Svizzera, si è dimenticato della Bulgaria e per compensare ci ha messo un po' tutto. Perciò ci sono montagne da 3.000 metri, il Mar Nero, che è comunque un posto anche di turismo, e soprattutto c'è questo turismo culturale molto interessante, perché ci sono le tombe dei Traci ed è questo che magari suscita l'interesse di tanti italiani che vanno alla ricerca del turismo culturale, perché ritrovano lì i monasteri ortodossi che sono bellissimi, con dei rifreschi iconografici proprio alla regola primordiale. Un po' tutte le culture e un po' tutti gli aspetti della natura che uno trova in Europa. Ti sembra che gli italiani abbiano un interesse crescente per la Bulgaria? Cioè, tu che sei in Italia ormai da 20 anni. Sì, perché dall'inizio mi capitava, i primi anni, che uno magari si sbagliava la capitale, diceva Ungheria, sì, Sofia, oppure Bucarest, che magari è la capitale della Romania. Poi c'è stato un turismo, diciamo, del divertimento su quei posti del mare, ci sono 2 o 3 posti dove ci si va per bere, per le ragazze, per i ragazzi. Però negli ultimi anni, forse perché anche le agenzie di turismo hanno fatto un lavoro un po' più dettagliato, ci sono questi itinerari culturali che sono molto interessanti. Li raccomando a tutti che si interessano di questi aspetti della storia europea. E cos'è dell'Italia, se tu potessi, che esporteresti in Bulgaria? Non dirci il sole, quasi, perché ce l'hanno già detto. No, ma io quasi tutto. Adesso vado a dire un cliché, ma il modo di prendere il cibo come estetica, l'estetica che c'è dappertutto. In Italia si sente così spesso la parola bello, bello, bello, proprio perché è un imprinting nella psicologia di cercare la bellezza. Cercare la bellezza. Noi invece ti vogliamo fare un regalo con questa canzone bulgar dei Familia Tonica, speriamo di averlo letto in maniera corretta. Sì, perfetta. Si intitola Sutrin Rano. Cosa vuol dire Sutrin Rano? La mattina presto. La mattina presto, allora sì. Più che indicato, il 14 agosto per salutarti, Antoinette, grazie. Nikolova, grazie per questo percorso che ci ha portato tra l'Italia e la Bulgaria con la nostra corrispondente per Deutsche Welle e per Life Economist. Oggi è rimasta con noi in Visti da Fuori. Sutrin Rano, la mattina presto in bulgaro, ci ha portato al primo tema d'attualità della mattinata e andremo tra pochissimo in Calabria per parlare di un disastro che si poteva evitare. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Parleremo dalle 9 in poi di come progredire, cioè di come cambiare in generale, partendo dall'individuo per arrivare al sistema, che sia il sistema politico, il sistema dell'informazione, il sistema dell'alimentazione, del rispetto dell'ambiente. Come cambiare atteggiamento? Cos'è che ci apre gli occhi? Cos'è che ci spinge al cambiamento? Se sappiamo ormai, e lo hanno dimostrato diversi studi psicologici e neurologici, che il cervello ragiona quasi con due binari, è sempre combattuto tra la voglia di cambiare e il comfort che è dato dalla routine, dalla ripetizione. Lo verifichiamo tutti i giorni, anche nelle nostre vite, e c'è già qualcuno che ci segnala quando ha potuto cambiare, qual è stata la molla che l'ha spinta sulla strada giusta. Questo oggi vogliamo chiedervi, dato per assodato che spesso l'informazione e la razionalità non bastano. Quelle volte che vi è successo nella vita di prendere in mano la situazione, prendere le redini e cambiare davvero, cos'è che vi ha spinto a farlo? Ed è una segnalazione bellissima quella che ci arriva per esempio dal nostro ascoltatore Giorgio da Padova, perché è riuscito dopo anni e anni e anni di fumo a smettere di fumare all'improvviso da un giorno all'altro, solo per il benessere della bambina che stava per nascere, Camilla. Tra l'altro dice: oltre alla salute ho scoperto un inaspettato risparmio di cui usufruisco ogni mese. Parleremo anche di come agiamo di fronte ai soldi, perché spesso sono le percezioni a muoverci, anche in ambito di investimenti, di risparmio, acquisto di una casa, stare in affitto. E ci rivolgiamo a un esperto, ci rivolgiamo a volte un consulente finanziario, a qualcuno che pensiamo ne sappia più di noi. E poi, nonostante gli consigli e le informazioni siano lì alla portata di tutti, ci ostiniamo nel comportamento e nella scelta che ci danneggia. Questo è il tema che affronteremo dalle 9. Prima, come detto, noi vogliamo fare un salto indietro. Nella notte tra l'11 e il 12 agosto ci sono state forti piogge, ma così forti da giustificare tutto quello che abbiamo visto in questi giorni in Calabria, soprattutto nella zona di Rossano e Corigliano Calabro, nella costa dunque che si affaccia sullo Ionio, per capirci, dove 500 persone sono state costrette a lasciare le loro case, anche le strutture turistiche in cui si trovavano, in un territorio che era stato già definito a forte rischio. E dunque ringrazio e saluto Sabrina Garofalo. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Sabrina Garofalo è la referente di Libera di Cosenza. Libera, che come sapete è nata con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie, e dunque la conosciamo per tutte le campagne per la legalità e la giustizia, in realtà si è occupata anche del rispetto ambientale e delle situazioni che avrebbero messo a serio rischio la vita delle persone. Voi di Libera su questa zona avevate già lanciato un allarme in gennaio. Cos'è successo e cosa dicevate nel vostro esposto? Sì, era il gennaio 2014, in realtà, quando in seguito a un'ingente pioggia abbiamo denunciato quello che è visibile purtroppo agli occhi di tutti e di tutte, ovvero tutto ciò che è la cementificazione selvaggia, quello che è stato l'abusivismo edilizio, in particolare in quella zona. Noi abbiamo denunciato 207 edifici abusivi, abbiamo denunciato una vasca di laminazione che sorgeva appunto sui letti dei due fiumi, dei due torrenti che l'altra notte poi hanno causato, ma non sono stati fiumi, non è colpa dei fiumi, questo è uno degli slogan che noi stiamo lanciando. L'abbiamo fatto nel gennaio. Cosa intende dire? Avete denunciato una vasca di laminazione? Ci spieghi meglio, Sabrina. Abbiamo presentato un esposto denuncia, ovviamente affiancati da quello che è il lavoro della nostra rete, in particolare da esperti del CNR. Abbiamo presentato una vera e propria denuncia con tanto di dati e di foto satellitari che hanno dimostrato come dal 2001, che è l'anno di attuazione del PAI, ovvero per l'assesto idrogeologico della Calabria sono state costruite ed erano ancora in fase nel 2000. E cerchiamo di recuperare la linea, ma sostanzialmente questi idrogeologiche, Sabrina, in particolare una vasca di laminazione che è una struttura. Sabrina, mi scusi, non so se ci sente, però ci stava raccontando ed era molto interessante l'aspetto delle date, e poi proprio lì la linea ci ha lasciato a metà. Dal 2001 quanti edifici sono stati costruiti dove non si sarebbe potuto? La risposta naturalmente tra qualche istante, quando recupereremo la nostra ospite. Non sono temi nuovi neanche per Luca Bonardi. Professore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E lei naturalmente non solo è un esperto del territorio, ma è un ricercatore al Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell'Università di Milano. Ha sviluppato diversi studi proprio sull'evoluzione storica del paesaggio. E riguardo a questi eventi che si ripetono e sono prevedibili, tante volte ha detto bisogna cambiare marcia, perché altrimenti dopo un mese saremo punto a capo. Ora sono stati smobilitati 1.300.000.000. È un buon segno? Sì, è un buon segno se poi effettivamente si farà un buon uso di questi fondi. Non è la prima volta, l'Italia ha una lunga storia di leggi speciali che nascono proprio in corrispondenza di fatti come questo, come quello di Rossano e Corigliano. Una delle prime leggi speciali in Italia nacque proprio a seguito, nell'Italia del dopoguerra, a seguito delle alluvioni del 51 proprio in Calabria. E gli esiti li vediamo in qualche modo ancora oggi. Quindi si tratterà di capire in che modo questi fondi andranno anche a agire su un piano fondamentale, che è quello di una nuova cultura del territorio, di una nuova politica del territorio, non fondata sull'emergenza, come abbiamo visto in questi decenni, ma invece su un approccio diverso all'edificazione e alla deedificazione di ciò che deve deedificazione essere... Attenzione, perché non verrà preso con simpatia e benevolenza da tutti quello che lei intende dire e la strada che intende indicare. Cosa vuol dire deedificazione quando in questi edifici che non andavano costruiti comunque ci vivono ormai persone, si svolgono attività? Cosa si può fare a questo punto quando ormai il danno è fatto? Si può fare quello che in realtà si sta facendo, si sta tentando di fare in altri paesi e parzialmente anche in Italia, cioè delocalizzare. In Italia ci sono almeno una cinquantina di comuni, che sono ben pochi evidentemente, ma sono un segnale in cui si è iniziato a delocalizzare. È almeno 25-30 in cui si delocalizzano anche insediamenti di tipo industriale, proprio in seguito al riconoscimento del rischio idrogeologico a cui queste aree sono soggette. Certo, poi abbiamo esempi più virtuosi, penso al caso di paesi confinanti come la Svizzera, in Canton Grigioni, dove è stata fatta una legge che è mirabile da questo punto di vista, ma anche l'Italia si è data, alcune regioni si sono date iniziative di legge importanti in questo senso. Soprattutto a seguito ancora di eventi di questo tipo, la Val d'Aosta la legge del 2002 che prevede delocalizzazioni e fondi per delocalizzare insediamenti a rischio. Cosa significa in pratica delocalizzare? Significa riconoscere quelle aree edificate che non andavano edificate, e non parliamo di abusivismo, parliamo di un abusivismo legalizzato ai danni della natura, dei suoi ritmi, e ricollocare quegli insediamenti, siano essi di tipo residenziale, commerciale o industriale, in luoghi sicuri per gli stessi insediamenti e a riduzione del rischio complessivo, perché poi quando ci sono situazioni di questo tipo il danno non è solamente per le strutture a rischio, ma finisce con ingigantire il rischio anche per strutture che In altre condizioni non lo sarebbero. L'effetto tappo, se costruisco un edificio in un'area di un fiume, che è dedicata naturalmente a un fiume, poi vado a mettere a rischio anche strutture che stanno al di fuori da quell'alveo, perché costruisco un tappo, un'ostruzione al naturale fluire delle acque. È questo quello che è successo tra Corigliano e Rossano? Sabrina Garofalo, che è tornata con noi, cos'è successo? Proviamo a spiegare. Sì, è successo che è esattamente quello che diceva chi mi ha preceduto in questo momento. È caduta un terzo delle piogge cadono in un anno, cosa che può accadere in un territorio, e tutto ciò che ha ostacolato il fluire dei torrenti ha fatto sì che ci fosse questa inondazione. Ma sono cose che noi abbiamo denunciato, ma non previsto. Solo noi Libera. Non solo noi Libera, ma io ci tengo particolarmente a dire che su quel territorio ci sono associazioni e comitati ambientali, come l'Associazione Terra e Popolo, che hanno presentato una serie di esposti e di denunce sul livello, ad esempio, dei muretti di sugli argini, su tutto ciò che potesse ostacolare il fluire del fiume. E purtroppo tutto ciò è realtà. Noi adesso abbiamo una bellissima reazione di un territorio che sta spalando, sta lavorando, ma non dobbiamo dimenticare il ruolo delle associazioni e dei comitati ambientali, che questo lavoro lo fanno tutti i giorni, che tutti i giorni denunciano, e che veramente noi speriamo che tutto ciò possa avere un senso, un ascolto, cioè non solo al momento dell'emergenza, non certo, solo noi chiediamo da mesi una gestione vera e propria, un coordinamento delle attività su quello che è in particolare l'assetto idrogeologico, ma affianchiamo, giorni scorsi siamo stati più di quasi 3.000 persone in spiaggia sul Tirreno dall'altra parte della Calabria per denunciare i reati ambientali legati al mare, ma lo facciamo quotidianamente col ciclo dei rifiuti. Quella ambientale non è un'emergenza, che purtroppo è qualcosa che accade dopo una tragedia, è un vero e proprio atto, bisogna prendere atto di una situazione, di come il nostro territorio sia stato violentato, usato in questi anni, e di come non ci siano state purtroppo delle politiche di gestione attente, concrete, rispettose delle norme, perché in realtà basterebbe rispettare le norme. Cioè le norme ci sono già, quali sono le zone a rischio molto alto, a rischio alto, lo si legge anche nel vostro esposto. Ci dice un ascoltatore. Quelle zone di cui stiamo parlando sono zone a rischio di pericolo di morte, cioè la normativa regionale ci dice che quelle sono zone R4, cioè pericolo di perdita di vite umane, ed R3, pericolo meno rischioso ma comunque di altissimo livello, e sono zone in cui comunque ci sono degli edifici e sono state costruite anche delle altre cose poi in tutta la Calabria. Nonostante ci fosse già questa segnalazione, questa denominazione. Ci scrive un ascoltatore, Sabrina, dice che non sono le leggi infatti il problema dei disastri idrogeologici, ma sono i dirigenti, i funzionari pubblici che non vigilano, o peggio, che incoraggiano a eluderle. Qui quando siamo in presenza ovviamente di fenomeni di corruzione che sono legati a doppio filo su quella che è la patente, chiamiamola così per semplificare, di edificabilità, ma addirittura anche in assenza di corruzione o di qualcuno che ci guadagna, comunque non c'è vigilanza, comunque non c'è un mandato ispettivo, comunque non si arriva a bloccare i lavori. Perché? Come lo spiega? Noi anche esplicitamente abbiamo chiesto nell'esposto intanto la verifica di quello che stavamo dicendo, ovviamente, ma soprattutto di rintracciare quelle che sono le responsabilità civili e le responsabilità penali, perché pur se la corruzione è difficile da dimostrare, non sempre è un fenomeno legato alla corruzione, ma è legato magari al lasciare andare le cose così come sono, una mancanza di cura, ad interessi che sono tanti e non sono soltanto nei termini della corruzione, pensiamo alle compartecipazioni, a tutto ciò che è il sistema poi di collusione, di concussione, ma anche di complicità nascoste e silenziose, che sono poi il terreno fertile delle organizzazioni criminali, non solo dell''ndrangheta, ma anche di tutto ciò che sono i poteri che in un modo o nell'altro, occulti o meno, deviati o meno, fanno forza sul nostro territorio. e non ci rendiamo conto che poi a parte insomma tutto ciò che è il discorso del pericolo della perdita delle vite umane, ma c'è tutto il discorso della tutela dell'ambiente come bene comune, dell'attenzione al territorio non solo come risorsa da spremere, chiaro. E intanto poi patrimonio. Nonostante il vostro esposto sia arrivato a queste immagini che stanno facendo il giro dei siti web delle TV nazionali, per cui sembra che un'intera area sia stata piegata all'improvviso dalla furia della natura, e non è così. Torniamo con voi tra pochissimo. 800 24 00 24 per i vostri interventi, questo è il numero di telefono, e per gli sms 349 238 6666. Prima però dobbiamo controllare le strade in Italia, come va la circolazione. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Stiamo parlando di quello che potrebbe essere definito banalmente un evento atmosferico estremo, ma come avete sentito non lo è. E ci sono tutta una serie di complicità del comportamento degli esseri umani che hanno portato a questa situazione. Per fortuna senza vittime nell'ultimo caso, ma allarghiamo un po' lo spettro d'osservazione e vediamo che dal 2000 al 2015 in Italia sono stati oltre 2000 questi eventi atmosferici estremi con frane, allagamenti, e sono morte più di 300 persone. Quindi se sappiamo che in Calabria l'89%, siamo quasi vicino al 90% dei comuni, è a forte rischio idrogeologico, questo si traduce in un'equazione, in un elevato rischio vita, come ci ha segnalato la nostra ospite di Libera, Sabrina Garofalo, per cui continuiamo a lavorare sull'emergenza quando in realtà si sa che queste aree sono a rischio e si sa da molti anni. Eppure sembra sempre che siamo colti di sorpresa dall'ultima pioggia che arriva, inevitabile. Da Catanzaro c'è un ascoltatore pronto, buongiorno, dica. Buongiorno, sono Pasquale. Buongiorno. Io Pasquale. Per lavoro faccio, diciamo, progettazione di case e anche urbanistica. Sì. Cioè, si prende sempre con i dirigenti e i politici che pure hanno le loro colpe. Ma forse la responsabilità più grande è di una popolazione che non è preparata culturalmente a queste problematiche, perché ogni qualvolta si progetta il giardino di casa permeabile con verde, prato, e poi si fanno lastricate di cemento, quello è forse il danno più grande che si può creare, perché si impedisce all'acqua di avere il corso naturale. Quindi, sai, la responsabilità non può essere ogni volta lanciata addosso a qualcuno. Solo al sistema, lei dice, partiamo da noi. Io, singolo cittadino, che mi sento tanto, come dire, virtuoso e non corresponsabile di quanto accade altrove, anche nel giardino, nell'opera che faccio in giardino, posso in realtà contribuire al disastro di domani. Sicuramente. Perché il vero problema lo vedete spesso, e lo si vede spesso? Sì, assolutamente. Io spesso e volentieri faccio realizzare pavimentazioni permeabili, che significa che l'acqua può passare filtrando nel terreno, e poi magari passi dopo due mesi e vedi che ci hanno poggiato su una lastricata di cemento. E le leggi, guardi, che sono severissime. Per noi tecnici che realizziamo la progettazione abbiamo dei vincoli inimmaginabili, quindi stiamo attenti e facciamo sì che la popolazione si prenda la propria responsabilità, altrimenti non se ne esce. No, ha fatto bene a sottolineare questo aspetto della responsabilità del singolo individuo, ed è qualcosa che viene segnalato anche dai nostri ascoltatori. Per esempio Federica ci dice, sì, ok, parliamo delle responsabilità, diciamo, collettive o delle istituzioni, poi i rifiuti che buttiamo per esempio nei letti dei fiumi, quando ci comportiamo noi singoli cittadini da barbari e poi piangiamo. È un po' quello che ci sta segnalando il nostro ingegnere Pasquale. Pasquale, ancora con noi? Sì, dico, è proprio così, assolutamente, ma anche nelle cose più semplici. Ci faccio un altro esempio. Ma guardi, anche semplicemente lo sversamento delle acque piovane, no? Non esiste da noi il concetto dei polmoni di permeabilità. Noi conosciamo soltanto i pozzetti di derivazione che significa sversare litri di acqua a velocità incredibile, e poi si fanno quei fori. Guardi, le faccio un esempio. Provi ad immaginare una pianta dove non si dà acqua per un mese. Poi a un certo punto, invece di arrivare con diciamo l'abbeveratoio, con la doccetta, arrivo con una bottiglia d'acqua. Io faccio un foro in quella piantina. E quello che succede spesso nei nostri terreni, noi raccogliamo le acque e le buttiamo tutte insieme in un foro. E quello lì arriva fino al mare facendo i danni che vediamo. Cioè anche questo è uno degli elementi di corresponsabilità. Grazie all'ingegnere che ci chiama da Catanzaro, grazie per questo contributo. Naturalmente andiamo dall'altra parte d'Italia dove c'è Agostino. Pronto, buongiorno. Agostino, dica. Buongiorno, sì, io abito a Milano Trenno, e è una frazione bellissima, felice, con un equilibrio idraulico, abbiamo i fontanili, le risorgive e abbiamo attività agricole. Trenno nel comune di Milano. Agostino, oggi c'è veramente questo troncare una conversazione che sta per nascere, vediamo se lo recuperiamo. Nel frattempo ci ha raggiunto il sindaco, buongiorno a Giuseppe Geraci, sindaco di Corigliano Calabro. Buongiorno, benvenuto in trasmissione. Buongiorno. Innanzitutto ci dia un aggiornamento sulla popolazione sfollata. Sono ancora 500 le persone, hanno potuto ritornare nelle proprie abitazioni. Da questo punto di vista cosa ci può dire, sindaco, prima di passare alla discussione? Per quanto riguarda gli sfollati riguardano la città di Rossano. Ah sì, a Corigliano ne avete meno, è vero. Noi siamo d'accordo, il sindaco di Corigliano. Poi c'è la città di Rossano che ha avuto problemi molto più seri, perché ci sono anche gli sfollati, oltre i 500 sfollati. Poi ieri abbiamo avuto un incontro con il ministro dell'ambiente, che è stato sul posto, ha fatto un giro, quindi anche dall'elicottero ha visto un po' la situazione, molto ma molto seria, sia per Corigliano e sia per Rossano. Mi sente? Pronto? Sì, la sentiamo in onda, continui, sì, perché l'abbiamo vista ieri allargare le braccia e dire forse finalmente procederemo nella strada giusta adesso, perché non si poteva continuare così, ha detto. Ma quindi gli dico anche quello che io ho detto anche al ministro, che questo, quello che è successo, può essere finalmente per queste popolazioni, per questo territorio, una opportunità, perché si può mettere mano finalmente a quello che l'annoso problema del dissesto idrogeologico. È vero anche che l'uomo ha fatto scempio nel tempo, ma questo è un problema che riguarda un po' tutto il territorio nazionale, vediamo quello che succede dappertutto, ma ora è il momento, è l'occasione, lo dico anche propizia per l'approvazione di un progetto. Il campo possibile. Quali sono i primi interventi? I primi interventi sono quelli, diciamo, urgenti, togliere sabbia dalle strade, ovviare un po' ai problemi di frane che si sono verificati, portare, diciamo, acqua nelle contrade. Ecco, diciamo, i primi interventi sono questi, quelli urgenti, di primo impatto. Poi è chiaro, ci vuole l'intervento, quello che dicevo prima, un intervento di mettere finalmente in fare un progetto, insomma, che possa passare tranquilli i capitanti, perché quanto piove. E abbiamo perso la linea con il sindaco Giuseppe Geraci. Pronto sì. Adesso proviamo a richiamarla e la sentiremo poi per le conclusioni dopo il notiziario. Luca Bonardi, si parla sempre d'emergenza, in realtà manca un po' la visione sul lungo termine. Sì, manca assolutamente una visione di lungo termine. E manca, io credo, anche, ha ragione l'ascoltatore che ha chiamato prima quando diceva c'è una responsabilità di tutti, manca una cultura generalizzata di cura del territorio, è questo che determina la visione di breve periodo e quindi l'affrontare il problema in base all'urgenza. E però la cultura non è data dall'alto in qualche modo, la cultura si costruisce. E allora mi chiedo quanto e in che misura ci siano responsabilità, ancora una volta, in termini educativi, formativi. Non dovrebbe forse quello della cura del territorio essere motivo e materia, non dico disciplina, ma insomma argomento di insegnamento, almeno laddove ci sono problemi di questo tipo? E in Italia è un'ottima domanda e ci torneremo tra pochissimo. Io sono costretta a interromperla adesso, ma non per togliere la parola, semplicemente per rimandare questo intervento, perché c'è il notiziario e poi torniamo insieme. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Manca una cultura dell'ambiente, di questo stiamo parlando qui a Spunti di Vista. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, ma manca in Calabria come in Veneto, in Toscana, nel resto d'Italia. Però in questi giorni le foto che circolano su questa alluvione e i comuni di Corigliano, di Rossano, la piana di Sibari ridotta, come l'abbiamo vista, con questo fango che arriva praticamente dal letto dei torrenti che sono tutti esondati, fa riflettere. Non ci sono state vittime, per fortuna, grandi disagi e grandi danni, ma era un disastro annunciato. L'aveva denunciato in un esposto Libera, e fa impressione leggerlo questo esposto perché è esattamente quello che si è verificato in questi giorni. Eppure nulla era stato fatto. C'era questa vasta area del territorio di Corigliano Calabro, si leggeva nell'esposto, che è soggetta ad alluvioni che vengono causate da torrenti che aumentano la loro portata ed esondano. Attenzione, perché qui si mette a rischio la vita degli abitanti e dei residenti, vi si leggeva. Che è stato fatto dopo questo esposto? Praticamente nulla, nessuna risposta. E di conseguenza, quando ci ritroviamo poi con l'esondazione, arriva di colpo, si smobilita del denaro l'intervento a pioggia per mettere, diciamo così, un tampone ai danni che sono stati fatti, ma non avanza la cura del territorio. Professor Bonardi, idrogeologo, le ho tolto la parola prima, ci siamo interrotti per il notiziario, e questa è la fotografia della situazione. Lei ci stava dicendo, successo in Calabria, ma non è che nel resto d'Italia sia diverso, e andrebbe insegnata nelle scuole la cura dell'ambiente. Certo, penso davvero che si debba partire da lì. Insomma, voglio dire, la buona scuola di cui si parla è quella, credo, innanzitutto, che costruisce buoni cittadini, no? Non è solo quella che risistema un soffitto o un pavimento, che poi guarda caso si ritorna alla dimensione del costruire, no? Quando si parla di scuola in Italia, per carità, va benissimo, ma non è solo quello, direi quasi, anzi, ma facciamo scuola sugli argini e negli alvei dei fiumi, no? Portiamo i giovani soprattutto in queste aree, ma non quando accade qualche cosa, normalmente nella quotidianità formativa, ne raccontiamo la storia e le ragioni degli infiniti eventi alluvionali su cui è costruita la storia del nostro paese. Mi viene da chiedere, per la Calabria, ma varrebbe per qualsiasi altra regione, quanti giovani calabri sanno delle alluvioni di grandiosa amplitudine del 51, del 53, del 72, del 73, quella del 2000, forse più vicina alla nostra memoria, quella di Soverato. Parliamo di centinaia e centinaia di vittime. Se non ripartiamo dalla conoscenza anche storica, quindi dalla costruzione di una cultura storica e geografica degli spazi che ci sono più vicini, credo davvero non si faccia molta strada e poi si finisca con il rimanere sul costante richiamo dell'emergenza e dell'emergenza. Senta, al 349-238-6666 le risponde un ascoltatore che dice, si chiama Claudio: io sono un maestro e ai bambini non c'è proprio bisogno di insegnare nulla, perché lo sanno, siamo noi adulti che invece, per interesse, per pigrizia, per assoluta incuria di ciò che ci circonda, distruggiamo, devastiamo, sfruttiamo, buttiamo rifiuti dove non dovremmo, costruiamo dove dove mettiamo a rischio anche l'incolumità degli altri. In realtà i bambini e i ragazzi più giovani, le generazioni più giovani sanno benissimo e non hanno bisogno d'altro. Comunque, sindaco, l'abbiamo recuperata, Giuseppe Geraci, il sindaco di Corigliano Calabro. Da voi non ci sono stati sfollati come a Rossano, siete ancora coperti dal fango? Beh, ancora c'è tanto fango in giro, quindi stiamo cercando di ovviamente di ovviare a quanto accaduto. E anche stamattina abbiamo messo già in atto i nostri servizi, quindi anche imprese incaricate di intervenire. Abbiamo anche seri problemi, insomma, ecco, seri problemi. Abbiamo un ponte sul torrente Gennarito che è mezzo crollato. Ieri c'è stata la visita del ministro Carletti, si è reso un po' conto della situazione, e, oltre agli interventi naturalmente di manutenzione immediata, è chiaro, io ho detto che finalmente questa può essere una occasione per risolvere in modo definitivo il problema del dissesto idrogeologico della nostra zona. E Galletti, che è stato lì da lei, il ministro, ha lanciato una sorta di, diciamo così, di appello, di slogan: mai più condoni edilizi. Sì, lo ha detto anche ieri nell'incontro del .com lì a Rossano, anche la presenza del prefetto. Mai più condoni, d'accordo, però ormai lo scempio è fatto, quindi e quindi bisogna adesso ovviare. È chiaro che qui non è questione di condoni, ma l'abusivismo resta comunque, e quindi il danno ormai è fatto. Abbiamo un territorio che è già uno strasciume pentolo, come diceva qualche tante meridionalista, un tante meridionalista, e a tutto questo aggiungiamo poi quello che ha fatto l'uomo, chiaramente, che ha poi ulteriormente danneggiato tutto, quindi non. Sì, ma sindaco, progetto. Lei è il primo cittadino, sarà indignato, arrabbiato, cosa può fare lei cosa ha detto a Galletti per mettere fine a questa situazione, al di là della rassegnazione di fronte ai danni fatti? Qual è il suo impegno in prima persona, quello del suo comune? Potete vigilare di più anche verso comportamenti che in qualche modo, come ci ha segnalato l'ingegnere che ci ha chiamato, contribuiscono a questa situazione, o semplicemente mettiamo un tampone a quanto successo la prossima pioggia? Io dico un'altra cosa, che i danni sono ormai stati fatti. Sì, questo ce l'ha detto. Quindi sì. Da Genova fino a Canicattì possiamo dire che il territorio italiano, ormai italiano, nelle condizioni in cui si trova. È chiaro, ci vorrebbero delle leggi comunque più incisive, dare possibilità anche al sindaco di intervenire immediatamente dinanzi a una costruzione abusiva che sta per nascere. Cioè, perché lei sente di avere le mani legate, sindaco? Ma io dico sì, potremmo fare un discorso a più basso raggio, direi. I sindaci purtroppo hanno le mani legate su tante cose, insomma, ecco. La burocrazia, eccetera. No, ma parliamo di questa. Di questo aspetto. Lei ha detto: se sta per sorgere un edificio abusivo, darci il potere di intervenire. Cioè, lei non può fare niente quando. Beh, chiaro, no, il problema è che dinanzi a una costruzione abusiva si fa l'ordinanza, eccetera, e si danno 60 giorni di tempo per demolire o per ripristinare il tutto, cosa che poi è effettivamente molto difficile, perché non, il proprietario, diciamo, l'abusivo, in quei 60 giorni può fare di tutto, ma non di questa mai. E allora in effetti ci vorrebbe appunto un intervento immediato del sindaco per provvedere direttamente alla demolizione. Questo potrebbe essere. L'ha detto al ministro ieri quando ho incontrato? No, veramente questo non glielo ho detto al ministro. Veramente questo si parlava d'altro. E allora lanciamo anche questo appello: più potere di intervento degli amministratori locali, che si sentono, e ce l'ha spiegato Giuseppe Geraci, così anche impotenti di fronte a quello che accade sotto i loro occhi. Luca Bonardi, potrebbe essere la strada da percorrere? Ma Da un certo punto di vista probabilmente sì, anche se mi viene in mente un caso che forse tra i più noti, quello dell'abbattimento di un palazzo a Genova, a Sestri Ponente. Quello è noto per chi conosce la zona, ma anche non solo, che è diventato un caso nazionale, quello di Via Giotto a Sestri Ponente. Ci sono voluti 20 anni dall'alluvione del 93, dico 20 anni per abbatterlo, era costruito dentro un alveo di un torrente. Ma perché? Perché ci sono voluti 20 anni? 20 anni, è stato abbattuto nel 2013. Sì, ma chi si oppone? Sì. Ad esempio chi ci abitava, la ventina di abitanti dentro. Ci sono state cause, ricorsi contro ricorsi, la regione, lo Stato, il comune, e voglio dire, se impieghiamo 20 anni per abbattere un edificio, e abbiamo in Italia probabilmente almeno 1,5 milioni di edifici costruiti in zone a rischio idrogeologico, e parlo solo del rischio idrogeologico e non parlo di altri rischi vulcanico o terremoti, e beh, possiamo immaginare quanti milioni di anni potremmo impiegare per mettere in sicurezza questo paese. Poi mi viene anche da dire, d'accordo sull'efficacia, la rapidità, l'efficacia di interventi che possono essere fatti dalle amministrazioni comunali. Non dimentichiamoci però che le amministrazioni comunali e in generale le amministrazioni locali sono anche responsabili di buona parte dello sfascio del nostro territorio, con gli straordinari strumenti, dico straordinari tra virgolette, delle varianti ai piani urbanistici. Non le fa lo Stato, le varianti. Le fanno le singole amministrazioni, certo, locali. Grazie. Luca Bonardi, grazie. Chiaramente molto ci sarebbe ancora da aggiungere su questi temi. L'importante è che non stiamo alla finestra a guardare alla prossima stagione delle piogge, che si ripeta quanto già era stato previsto in questo caso in Calabria, denunciato da Libera, WWF, Legambiente, le associazioni che hanno un occhio di particolare sensibilità a quanto sta per accadere sul territorio. Noi concludiamo, non prima però di aver dato la parola veramente con un appello alla rapidità, all'ultimo ascoltatore. Severino, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, pronto. Vicente. Severino, sì, dica, da dove chiama? Chiamo da Vicenza, ho lavorato per anni in Calabria, la prima volta che sono andato a Reggio Calabria, arrivavo in macchina, quello che mi ha impressionato è stato vedere due condomini di 3 o 4 piani fuori terra che erano costruiti in mezzo ad una fiumara in pratica, che però non era il fiume, cioè sul piano, su un piccolo falso piano, era veramente con una pendenza del 20-30%, una cosa impressionante, e mi chiedevo come il buon senso, non dico le autorizzazioni che probabilmente non ci sono mai state, ma comunque il buon senso di costruire in un posto del genere. Grazie per questa fotografia, perché quando si vedono episodi del genere appunto poi si spiega tutto il resto, e poi le immagini di questi giorni. Grazie a Severino che ci ha chiamato da Vicenza e ci ha raccontato di questa incredibile scatto, di questa incredibile visione che si è presentata sotto i suoi occhi con questo evidente abuso. Noi chiudiamo questa pagina, vi terremo sempre aggiornati naturalmente su quanto sta accadendo in Calabria e non solo, nel corso dei giornali radio. Perché dobbiamo occuparci di decisioni, anche se in realtà ogni volta che si toccano temi di attualità, di informazione, inevitabilmente si ha a che fare con ciò che muove e gli esseri umani e la voglia di cambiamento, perché c'è un solo modo per progredire, cioè andare oltre il senso comune, spezzare un po' quello che è il sentiero tracciato. Ma noi tante volte ci sentiamo combattuti anche come singoli individui, non solo come sistemi, tra ciò che è comodo, diciamo così, ciò che siamo abituati a fare, a vedere, al di là di quello che è il raziocinio ci direbbe, e ciò che invece andrebbe fatto. È difficile a volte uscire dalla zona comfort, dato dalla routine, data dalla ripetizione, e vi abbiamo chiesto proprio questa mattina, per questa seconda parte di questa trasmissione del 14 agosto, quando invece voi finalmente, nelle piccole scelte individuali, che possono essere anche quelle verso una vita più sana, siete riusciti a cambiare rotta. Cos'è che vi ha convinti a farlo? Cioè l'informazione, sensazione, i dati, i numeri, la ragione o l'emozione, o un esempio, o una persona che avete conosciuto. E ci ha scritto un ascoltatore parlando dell'amore per la figlia che stava arrivando, che stava per nascere, che l'ha spinto di colpo a smettere di fumare dall'oggi al domani, così, quasi senza sforzo. Altri ci parlano di analisi del sangue che hanno di fatto indirizzato le loro decisioni, e altri ancora del potere della forza di volontà. Voi diteci quello che vi è successo al 349-238-6666 oppure telefonateci all'800-24-0024. Noi intanto salutiamo gli ospiti che sono intervenuti per questa parte della trasmissione e diamo il benvenuto a un ricercatore che è entrato a far parte della lista dei 100 più innovativi del mondo. Si chiama Massimo Marchiori. Buongiorno, benvenuto, grazie per il suo tempo. Buongiorno a tutti. E lei, Marchiori, è stato definito colui che ha inventato l'algoritmo, ma lei non vuole nemmeno utilizzare questa parola, diciamo il metodo che ha portato poi all'idea di Google. Cioè, lei esattamente cosa aveva inventato? Sì, tutto l'algoritmo fa paura, specialmente la mattina, per cui evitiamo di dirlo. No, allora, stiamo parlando... È una parola abbastanza sdoganata ormai. Sì, sì, no, adesso sì, diciamo, se uno vuole mostrarsi è una parola molto, molto trendy, ecco, ultimamente. No, era già nel 97-98, allora i motori di ricerca erano una follia, nel senso che non esistevano, e anche quelli che... quelli che magari non avevano capito bene che cosa avrebbero poi comportato i motori come Google o altro erano ferocemente critici, però insomma io ho avuto l'idea di un motore di ricerca che andasse oltre per l'epoca, che fosse uno Sherlock Holmes, diciamo, molto più intelligente nel darci i risultati per poi poter fare le nostre scelte, tra l'altro navigando su internet. E l'idea, diciamo, che ho presentato alla conferenza mondiale è stata molto ben apprezzata da tutti quelli che erano lì presenti, tra cui c'era Larry Page, che è uno dei due fondatori di Google, che è rimasto folgorato da questa idea. Lì poi abbiamo avuto fitte conversazioni, e poi lui ha detto: sai, è un'idea veramente molto bella, cerco di farci un motore di ricerca commerciale. E l'anno dopo ha fondato Google, poi la storia sappiamo come è andata a finire. Come è andata a finire lo sappiamo. Lei quanti anni aveva? Ma era il 97-98, devo dire, io nonostante sia matematico con i conti avevo 23-24 anni. Ed è finito anche al MIT, come diciamo qua, all'MIT di Boston, nello studio di Tim Berners-Lee, che è il fondatore del web. Insomma, lei ha incontrato proprio tutte queste menti, questi innovatori, ed è uno di loro. Poi però, dopo tutta questa carriera folgorante, eccezionale, negli Stati Uniti, lei ha fatto una scelta che verrebbe timbrata dai più come irrazionale, perché in generale è andato contro tendenza anche lì. Cioè, lei ha deciso di tornare in Italia. Perché? Sì, allora, anche vari ascoltatori prima, no, dicevano le loro scelte sono state dettate da varie cose, ma specialmente emozioni, per esempio. Nel mio caso è stata un'emozione forte, cioè diciamo che è una scelta irrazionale se uno guarda solamente l'aspetto dei soldi, perché negli Stati Uniti guadagnavo e guadagnerei tuttora se ci tornassi molto di più che non in Italia, per cui guardando solo ai soldi sembra una follia. Però ecco, io il mio rapporto con i soldi, diciamo, è molto tranquillo, nel senso che la mia filosofia è che i soldi sono un po' come il sale nella vita. Allora, se uno nei piatti mette troppo sale, no, il piatto insomma non riesce bene, ci vuole sale QB quanto basta. Per cui secondo me i soldi servono QB quanto basta, insomma quello che mi danno in Italia mi basta, mentre l'emozione di ritornare nel proprio paese e di fare qualcosa di buono, cioè detto in soldoni, a parte che può sembrare magari romantico, però sempre di emozioni si tratta. Io amo il mio paese, insomma, non voglio essere qui e dare il mio contributo, e ho pensato che ci fosse molto più bisogno di me qui piuttosto che, insomma, restare all'estero e lasciare l'Italia al proprio destino. Questo paese che lei aveva abbandonato dicendo non trovavo neanche un posto di lavoro qui, perché se non avevo la raccomandazione non me lo davano, nonostante l'interessamento di Larry Page per lei, nonostante fosse avesse tutte le porte aperte ed era un professore del MIT, le porte aperte negli Stati Uniti, qua non si trovava neanche il contratto e oggi ci torna. Una scelta che da un matematico che dovrebbe basare le sue decisioni solo su numeri e calcoli della probabilità si fa fatica a capire, ma lei è un romantico. Anche l'ultimo libro si intitola, come si intitola? Ce lo racconti e di cosa parla? Si intitola Meno Internet Più Cabernet, e diciamo a me ha colpito perché è una frase insomma un po' strana, no? Ma è uno slogan che si trova in giro dipinto sui muri, per esempio, ci sono anche magliette con su scritto questa cosa, e mi ha colpito perché sembra un po' la lotta tra due sette, no? Cioè quelli che dicono internet salverà il mondo, abbiamo bisogno di sempre più tecnologia, e quelli che invece dicono no, guardate che forse la tecnologia non è tutto, ma ci vuole anche il cabernet, cioè la vita vera. E mi ha sempre colpito questa lotta tra queste due fazioni, in un certo senso, e per cui in questo libro poi ho cercato di spiegare chi tra queste due fazioni ha ragione, no? Se veramente abbiamo bisogno di più tecnologia oppure di tornare insomma al cabernet, alla vita vera, o se la verità sta nel mezzo, che magari le cose non sono così semplici come sembrano, per cui per capire in che razza di mondo viviamo al giorno d'oggi. Lei, per spiegare poi il grande problema delle scelte, cita il calciatore che deve tirare il rigore. Sì, beh, allora le scelte sono, è una cosa bellissima studiare le scelte delle persone, no? Certe volte facciamo scelte irrazionali, strane, ma poi si trovano nella vita di tutti i giorni queste cose. Per esempio, appunto, parlando di calcio, che magari è un argomento che insomma che specialmente in Italia si conosce molto bene, no? Ecco, si è portati a pensare che magari i calciatori migliori sono quelli che hanno più tecnica, il Maradona di turno, invece il calciatore migliore è quello che sa fare le scelte in maniera più rapida possibile, per cui nell'esempio del calcio di rigore che tutti insomma conosciamo, lì c'è una scelta non da poco, cioè il calciatore può scegliere di tirare a destra oppure a sinistra. Le scelte non ci piacciono, no? Non ci piacciono perché dopo magari abbiamo il tempo di parlarne, ma comportano fatica e a noi non piace fare fatica, no? Cioè l'uomo è tendenzialmente pigro, e per cui il calciatore, come l'uomo che si può trovare in una situazione di scelta, no? Vado al supermercato, devo scegliere tra il prodotto A e il prodotto B, il calciatore deve scegliere tiro a destra oppure tiro a sinistra, è una scelta che non piace, e il calciatore più di successo com'è che opera la scelta? Tipicamente guarda il portiere fino all'ultimissimo momento, a una piccolissima frazione di seconda, se vede che il portiere tende ad andare verso un certo lato, questo gli semplifica la scelta e lui tira dal lato opposto, per cui noi cerchiamo di fare le nostre scelte in modo che la nostra fatica sia più piccola, e il calcio di rigore è proprio l'emblema di questo, tant'è che i portieri di successo, cioè ribaltando la prospettiva, i portieri più bravi, approfittando di questo fatto, cioè che anche il calciatore è un uomo e fa fatica a fare le sue scelte, tendono a suggerire una scelta a quello che deve tirare il calcio di rigore, e poi si buttano dal lato opposto e tendono spesso a parare con successo i rigori. Innanzitutto la ringraziamo per questo linguaggio che rende accessibile a tutti questi studi che poi voi grandi matematici fate, Massimo Marchiori. Ma il problema della scelta, lo ha citato anche lei nella sua esternazione, si pone costantemente agli esseri umani. Per esempio, come si acquista? Noi pensiamo di fare acquisti in maniera razionale. Come investiamo? Come utilizziamo i risparmi e i soldi? Quali sono i meccanismi che ci muovono di fronte a questo ambito della nostra vita che tocca tutti? Ci sono degli algoritmi anche in quel caso, o è l'emozione che ci guida? Lo chiediamo al professor Paolo Legrenzi. Buongiorno e benvenuto. Pronto? Pronto, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno. Il professor Legrenzi è un esperto di psicoeconomia e di psicofinanza. e quindi ha analizzato per anni quelle che sono le nostre scelte. Vogliamo capire se noi utilizziamo più la razionalità, l'emozione, siamo facilmente manipolabili. Come agiamo in realtà di fronte alle piccole scelte della vita quando di mezzo ci sono constatazioni economiche e di soldi? Diciamo che molte di queste scelte le facciamo in maniera automatica, sulla base dell'esperienza passata. Bisogna riflettere anche sul fatto che la nostra specie si è molto evoluta perché in molti casi riesce a non scegliere, cioè a fare le cose in modo automatico, e questo fa risparmiare molte energie, fa battere quella, diciamo, contrasta quella pigrizia verso la scelta di cui parlava giustamente Marchiori. Il problema è che in molti casi della vita oggi non siamo come quello che tira in porta, che ha due possibilità, o a sinistra o a destra, ma il numero delle possibilità è molto più ampio, ed essendo molto più ampio noi cerchiamo di ridurle sensatamente. Talvolta questa riduzione, per esempio nei consumi, andiamo a fare la spesa e così via, non viene fatta male in fin dei conti, viene fatta sulla base della nostra esperienza personale passata. In altri casi, per esempio le scelte di risparmio, dato che parliamo appunto di psicoeconomia, vengono fatti con una riduzione che non ci accorgiamo di fare delle possibilità, che in realtà ci danneggia. Prendiamo in considerazione troppe poche possibilità. Questa è l'essenza, perché la situazione è molto più complicata. Ci faccio un esempio, Legrenzi. Per esempio, in genere noi scegliamo in generale nella vita, non solo per i risparmi, sulla base di ciò che ci è noto. È una strategia molto saggia, perché in genere quello che ci è noto non ci dà grandi fregature. Quindi scegliamo sulla base di ciò che ci è familiare e noto. Quando noi mettiamo da parte dei risparmi, perché la vita può riservarci le sorprese, oppure smettiamo di lavorare per i nostri figli, per i mille motivi per cui risparmiamo, in realtà quello che ci è noto sono essenzialmente le cose di cui le persone ci parlano e così via. Quindi gli italiani, presi in blocco tutti insieme, dove hanno messo i loro soldi? Nella casa, che è una cosa evidente, che ci serve come servizio, cioè per non stare alle intemperie, e ci serve anche come risparmio, perché in questo modo non dobbiamo pagare un affitto, e quindi sono risorse cumulate per il futuro. E poi in Italia per molti anni le abbiamo messe nei titoli di Stato, che era un ottimo investimento. Purtroppo, per la pigrizia di cui diceva Marchiori, quando lo scenario è cambiato completamente, noi abbiamo continuato a fare come prima. E quindi c'è questa inerzia, questa ripetizione, questa induzione a ripetere che domina. I consumi, in tante cose della vita, se lei fa un bilancio tra il vantaggio di non pensare, che è quello che poi... Chiaro, di non pensare sempre a tutto e doverlo risolvere. Sarebbe una vita noiosissima. E di fare un po' con un misto di emozioni e a naso, in fondo non comporta grandi danni. In altri casi invece comporta molti danni. Perché se noi abbiamo questa base sempre emozionale, poi condizionata alla pigrizia, a volte dal senso di colpa, ci sono mille elementi. Ci siamo chiesti, il cambiamento dunque e di comportamento nell'individuo e del sistema e delle aziende, si pensi anche all'interno delle organizzazioni di lavoro, come può avvenire se poi in realtà le leve che ci muovono sono sempre leve che ci portano a ottenere il miglior risultato in fretta col minimo sforzo, a ripercorrere delle zone di comfort? Allora noi esseri umani possiamo mai davvero cambiare idea perché qualcuno ci snocciola dei dati, ci dà delle informazioni, perché veniamo informati? Che importante questo che lei ha detto, non riduce anche un po' l'importanza dell'informazione, professor Legrenzi? Bisogna distinguere, siccome oggi il cambiamento scientifico e tecnologico è molto importante, l'umanità ha costruito un gruppo di persone, ormai milioni, che sono come Marchiori. Lui, quando sviluppava l'ipoposica algoritmo, diciamo il metodo, questo rastrello per cercare informazioni, allora per essere più semplici, il suo rastrello molto sofisticato, quello che poi ha prodotto Google, ecco, quando lui faceva questo mestiere insieme ad altre migliaia di persone, guidava i congressi, queste persone erano un corpo di persone specializzato che il cambiamento lo fa solo in termini razionali. Questa è la scienza della tecnologia. E ormai sono diventati tanti. E in questo campo noi abbiamo costruito delle persone specializzate che sulla base di moltissimi dati, conoscenze e così via, introducono l'innovazione su basi puramente razionali. Poi, nel campo molto più ampio della vita quotidiana, che è quello che interessa i nostri ascoltatori, visto che non fanno mestiere di marchioli, in realtà noi cerchiamo di fare dei compromessi in questa situazione, diciamo, tra la razionalità di esplorare in termini puramente razionali le possibilità in nuovi ambienti e in realtà quello che veramente ci fa cambiare nella vita quotidiana, e che sono la paura o l'amore. O la paura o l'amore, lei lo riduce a due, è questo che ci cambia. E finora dagli ascoltatori e da quello che ci scrivono proprio infatti emergono questi due dati. La paura emersa dopo analisi del sangue di un certo tipo, ce lo segnala qualcuno che dice poi ha lasciato le cattive abitudini in seguito a questo controllo, e l'amore per la figlia in arrivo o per qualcuno della famiglia che si preoccupava per la piega che aveva preso la salute di questo nostro ascoltatore. Cosa ci fa cambiare? Di questo stiamo discutendo e continueremo tra poco. 800 24 00 24 per le vostre esperienze, oppure ai messaggi SMS potete digitare 349 238 6666. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. C'è anche la scienza delle decisioni e dei processi decisionali. Per esempio c'è una cattedra proprio qua all'Università degli Studi di Milano intitolata alle decisioni, a come si sceglie. Gabriella Pravettoni è la titolare di questa cattedra. Buongiorno professoressa, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. E ci illumini su questa zona un po' in ombra del nostro comportamento quotidiano. Quando scegliamo, ha detto il professor Legrenzi, in realtà le uniche due molle sono la paura e l'amore, è così? No, non è così, contraddico subito. Non solo, intanto saluto Paolo Legrenzi che è stato il mio maestro e che a me ha insegnato la psicologia della decisione, quindi... Non è un po' giocoso il contraddirlo o comunque intervenire dicendo che è vero che prevalentemente noi ci muoviamo attraverso la paura e scegliamo anche su quello che si chiama regret, no? Sul fatto che noi abbiamo avuto delle esperienze passate che ci hanno in qualche modo deluso, che sono cose che non sono andate bene e ci condizionano per le scelte future. Quando lei parlava di ripetizione, in effetti la ripetizione a volte è dovuta proprio al fatto che noi rimaniamo incastrati in qualche modo in un meccanismo di delusione, non abbiamo quindi il coraggio di decidere. Ma a parte appunto la paura e l'amore, che è chiaramente molto più emozionale, ma anche lì mi viene da dire che ci sono molte persone che hanno constatato che a volte cambiano moglie per riprendersi una nuova moglie che paradossalmente è identica alla prima, quindi e rifanno, come dire, gli stessi errori nella relazione. Quindi non sono solo la paura e l'amore, in realtà quello che un po' ci spinge, il drive della situazione, è il coraggio di approfondire delle cose tenendo conto che noi siamo appunto condizionati dal regret, che noi utilizziamo queste euristiche che sono state citate senza definirle, ma proprio queste scorciatoie cognitive che ci portano ad utilizzare solo le informazioni che noi abbiamo, perché appunto non approfondiamo altre e utilizziamo quelle, e legate al fatto che noi abbiamo bisogno di agire dei sistemi, no? Senta professoressa, le sottopongo subito una reazione a quello che lei sta dicendo. Ci dicono che in realtà noi abbiamo troppo benessere, è per quello che ripetiamo, è per quello che non otteniamo cambiamento anche negli aspetti più individuali, perché abbiamo paura di perdere, cioè non ci sono tutti gli elementi argomenti che lei ha preso in esame fino adesso, ma in più abbiamo anche questa sorta di, possiamo chiamarla avidità, che non ci fa allontanare da quello che abbiamo, abbiamo paura di perdere anche quel poco che abbiamo, e allora anche se sappiamo che ci farebbe bene cambiare, che dovremmo dire no a certe situazioni, no a certe persone, no a certe cose, preferiamo non rischiare. Beh, qui ci sono, in quello che lei dice ci sono degli molti. No, ce lo segnalano gli ascoltatori, questo è un SMS che ho letto. Questa segnalazione in realtà pone insieme degli elementi diversi. È vero che noi abbiamo un'avversione alla perdita, cioè uno dei drive che noi abbiamo è il fatto che noi cerchiamo di contenere i danni, quindi ci muoviamo scegliendo delle cose abbastanza sicure, e come diceva Paolo Legrenzi, non c'è niente di più sicuro di quello che noi già conosciamo, no? La famosa strada vecchia. E è vero che però quando una persona parla di perché abbiamo un benessere, eccetera, chiaramente lo sta facendo in una condizione di benessere, conoscendo un benessere. Potrei portare molti esempi in cui assolutamente non è il benessere quello che ci porta, no? Se solo noi pensiamo a un'area in cui io sono un pochino più esperta, che è quella delle decisioni in ambito medico, se noi pensiamo a quello che noi scegliamo per la salute, tante volte il risultato di un test è un elemento che condiziona, ma proprio perché noi cadiamo in una condizione, ci troviamo in una condizione in cui il nostro corpo non è più perfetto e siamo delle persone malate, e quindi lì le scelte sono tutt'altro che in una condizione di benessere, anzi cambia proprio il sistema quasi di credenze, valori e ideali, perché di fronte a determinate di colpo, sì, è come accendere, sappiamo, non vale più niente. È come accendere una lampadina e cambiare anche l'ordine delle priorità e dei valori. Allora, quanto conta un'informazione corretta a questo punto per i consumatori? Rosario Trefiletti, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Lei è presidente di Federconsumatori e alla fine voi vi trovate tutti i giorni a fare i conti con questo, a denunciare il fatto che ci si spinga noi consumatori a scegliere in una direzione convinti di fare il nostro bene o almeno di non danneggiarci, e ci si nascondano altre informazioni. Come se in realtà poi le nostre scelte sono dovute anche a questioni emotive o questioni di ripetizione, di comodità. Abbiamo un pochino a volte l'impressione che, nonostante il meritorio lavoro delle associazioni consumatori e di chi ci mette in guardia, per esempio in ambito alimentare, da diversi aspetti, poi in realtà chi si danneggia, chi ha delle scelte, delle abitudini sbagliate, anche la stessa persona che fuma non è mai stata distolta dal fumo, dall'informazione corretta che c'era sul pacchetto delle sigarette. Io non ne conosco uno. Sì, lei ha ragione, ha toccato uno dei punti fondamentali del rapporto tra cittadino e mercato, e famiglie e mercato. Ora c'è da dire che comunque noi la battaglia di una maggiore informazione trasparente, chiara, in cui finalmente questo diritto inalienabile del cittadino di sapere esattamente quello che acquista, quello che compra, le ricadute che possono avere sulla propria persona e via dicendo, beh, è una battaglia che trova anche molti oppositori all'interno del paese e all'interno anche della stessa comunità europea, e però credo che sia una battaglia giusta e noi la continuiamo a fare. Oltretutto c'è anche una maggiore consapevolezza dei cittadini che proprio vogliono essere maggiormente informati per fare le loro scelte appunto in massima libertà. Ma detto ciò, infatti era una sorta di provocazione, che naturalmente quello che fate è fondamentale, soprattutto la lotta per la chiarezza delle etichette e di quello che contengono i cibi e quello che ingeriamo. Assolutamente, assolutamente. Ma io volevo, fatta questa premessa, volevo ricordare anche battaglie che non si fermano, che continueranno ovviamente. Lei stessa ha citato i prodotti agroalimentari, ma soprattutto su quelli lei capisce che il cittadino vuole sapere a volte è distolto da etichettature sbagliate, come per esempio oli d'oliva con olive che vengono dal nord Africa, dove per esempio nell'etichetta nell'etichetta compaiono o bandiere italiane o colline toscane per dare, per, insomma, per raggirare un pochino, diciamo. Sì, sì, per dare un senso ai made in Italy, che d'italiano non ha niente. Esattamente, esattamente. Ma però, fatta questa premessa, io volevo, guardi, ho sentito diciamo così, le bellissime riflessioni che sono state fatte fino adesso, e io purtroppo devo dire che il condizionamento più forte che c'è attualmente nel mercato è un condizionamento di carattere economico. Questo certamente tocca di meno chi nel mercato fa acquisti o comunque si colloca anche in termini, mi faccia passare il termine, in termini ideologici, voglio dire un vegetariano, uno che vuole comprare solo prodotti biologici o per esempio innamorato delle teorie delle decrescite felice e via dicendo. Ecco, queste questioni pongono dei limiti a un condizionamento economico che oggettivamente è l'elemento fondamentale nelle scelte di mercato delle famiglie in questi anni. Le leggo ieri, le leggo sì. Il primo giornale mi capita sotto mano, ieri giovedì 13 agosto, non pensate alle calorie, ecco la dieta firmata Coca-Cola. Cioè, in sostanza, questa dieta, questa ricerca dice non pensate a quello che ingerite, perché tanto se fate esercizio fisico potete smaltire qualunque cosa. Ora, questo è un esempio, no? Quando lei parla di condizionamento economico, un esempio, l'ultimo di una lunga serie, in cui quando sono diciamo industrie, aziende interessate a finanziare studi scientifici, è chiaro che poi le conclusioni siano di un certo tipo. Ma certamente. Per quello infatti, l'informazione corretta, lei ha detto, voi rappresentate come Federconsumatori l'esigenza di informazione corretta, dovrebbe passare anche da un'informazione che sia indipendentemente finanziata. Ma lei guardi, ma lei dice le cose che noi sosteniamo e continueremo sempre su questo elemento fondamentale. Del fatto che io ogni volta che mi trovo di fronte ad esempio a degli studi fatti non da istituti terzi, da università o che altro, ma magari sono fatti da istituti privati e che portano e concludono con determinate cose, beh, francamente io dico no, così proprio non va bene nella maniera più assoluta. Ci vuole proprio la terzietà, ci vuole l'indipendenza nel dare giudizi. Lei pensa a tutto il dibattito che c'è stato sugli OGM, sui prodotti geneticamente modificati o che altro, quindi ci vuole proprio quello. Però io insisto molto, io vorrei dire una frase in maniera anche forse troppo sintetica, ma si veda che gli stessi comportamenti dei cittadini e anche delle aziende, le faccio degli esempi. Aveva prima, detto troppo sintetica, ci piaceva questo richiamo alla sintesi. Allora, dica. Prima nel supermercato, quando lei andava, sì. I colori rutilanti, oppure il fatto di avere all'altezza d'occhio i prodotti di marca, quelli che costavano di più, erano, diciamo così, delle metodologie che funzionavano, ma in una oggi situazione di normalità. Oggi non funzionano più, oggi il cittadino per questo condizionamento economico invece guarda di più, non tanto, infatti c'è una caduta, non solo in guarda quantità, di più a cosa? Guarda di più al risparmio, guarda di più alla promozione, guarda di più compro, prendo tre e pago due, infatti le stesse aziende di intermediazione si sono appunto adeguate. Queste sì, si sono adeguate anche a questo condizionamento. E dunque abbiamo nominato finora la paura, l'amore e il condizionamento economico, tre degli elementi che condizionano le nostre scelte. Come agiamo, come produciamo cambiamento nei vari ambiti della vita in una società del 2015 e che ruolo ha l'informazione corretta, visto che, come abbiamo visto, tanto di quello che è alla base delle nostre scelte è spesso irrazionale. Continueremo con le conclusioni tra pochissimo, andiamo a vedere però la situazione del traffico. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E ritorniamo insieme, Massimo Marchiori. Dunque, ha sentito tanti stimoli, gliene propongo altri che arrivano via SMS, perché state partecipando alla discussione al 349-238-6666 e parlano alcuni di forza di volontà. Infatti ci scrive una persona che dice: io sono disabile, sono diventato disabile, dunque non dalla nascita, ma continuo a lottare con molta forza di volontà per guarire. E si chiama Anna, la salutiamo naturalmente. E la paura di perdere alcuni delle, insomma, dei vantaggi, delle comodità che abbiamo, è alla base anche di una sorta di dipendenza che poi abbiamo da certi oggetti che sappiamo ci fanno male. Poi l'informazione corretta è importante, ma anche gli istituti terzi possono essere corrotti, ci segnala qualcun altro, veramente, come dire, disilluso sulla possibilità che si possa arrivare a un obiettivo, a un risultato di questo tipo. Lei, professore, sentendo lei che lavora con questi cervelli mondiali, no? L'hanno inserita nei primi 100 Technology Review, dice che lei è uno dei 100 ricercatori più innovativi del mondo. Osservando gli altri che hanno fatto innovazione, che veramente hanno cambiato rotta, hanno creato qualcosa di nuovo, si sono rivelati dei pionieri, perché penso sia quello, personalmente penso sia quello uno dei modi per no, cambiare, soprattutto quando c'è un problema che sembra assolutamente insormontabile. Meglio concentrarsi su quei 5-10% che ce la fanno, che l'hanno risolto, che applicano bene evidentemente dei comportamenti e nei loro posti di lavoro e nelle loro relazioni, e cercare di carpire loro il trucco. Questa è una delle ricette. Lei che ha vissuto accanto a grandi innovatori, quando si deve decidere, si è presi dalla paralisi, ci diceva, dell'eccesso di scelte, cosa bisogna fare? Innanzitutto una primissima cosa è la perseveranza, no? Cioè, ci sono storie eccezionali di persone che hanno perseverato nonostante i fallimenti, perché dicevamo prima l'uomo è pigro, cerca magari l'amore, l'uomo cerca le sensazioni positive, per cui cerca le cose belle, no? Un'altra emozione fondamentale è il divertirsi, per esempio, però non sempre la vita ci dà la gratificazione, no? Immediata, ci dà il pezzo di cioccolata subito, no? La vita alle volte è un po' più complessa. Allora è la perseveranza quella che ci aiuta a superare il fatto che spesso certe scelte magari comportano nel breve termine un qualcosa di faticoso, insomma qualcosa di brutto magari, però nel lungo termine poi le cose migliorano. Un esempio perfetto è quello che abbiamo sentito pochi minuti fa, le code, no? Cioè il traffico. Noi siamo qui nell'anno 2015 e abbiamo sempre, ma giustamente anche per come stiamo, sempre la situazione del traffico con sempre queste code, no? Ecco, allora siamo nell'anno 2015. Tra 100 anni le cose saranno cambiate? No? Forse no. Allora perché siamo finiti in questa situazione in cui ci sono sempre queste code? No? Ormai dall'Ave Maria siamo passati al code fra Pero e Cormano, no? Che è la nuova litania dei tempi moderni. Allora ci siamo incastrati noi dentro questa situazione, perché dicevamo prima, no? L'uomo minimizza la fatica, allora più del 95% delle code del traffico che noi abbiamo non sono dovute al fatto che la rete funziona male, la rete del traffico, le strade, insomma, ma sono dovute alle nostre scelte. Se noi scegliamo la via più semplice, quella che apparentemente ci fa fare meno fatica, per cui la via più veloce, proprio la strada più veloce in questo caso, e finiamo imbottigliati in code che stiamo creando noi stessi, mentre facendo scelte un po' più coraggiose, un po' più fuori dal coro, no? Magari prendo la strada che è più lunga di 2-3 km, apparentemente più lunga, però poi le code non si creano più, per cui questo dobbiamo fare. Cioè, nella vita bisogna uscire fuori dal coro e perseverare, cercando di superare la fatica iniziale, non cercando il pezzo di cioccolata subito. Beh, scusi, rimanga lì col pezzo di cioccolato. Lei che ha vissuto tra Italia e Stati Uniti avrà sentito spesso in Italia però ripetere il ma tanto non c'è nulla da fare, un pochino la rassegnazione, che invece negli Stati Uniti, società più che imperfetta e molto lontana dall'essere un paradiso sulla terra, però c'è meno questo, c'è il senso in ogni, a ogni livello, anche in un bambino di 8 anni, che il cambiamento si possa fare, che se una cosa non ti va la puoi cambiare. Lei come spiega, proprio a livello di paragone tra questi due sistemi, queste due società, questo diverso modo di porsi? Sì, ma questa è questione di capire veramente come stanno le cose. Cioè, se uno capisce che per cambiare le cose, cioè diciamo chiaramente, cioè i cambiamenti veri della nostra società non sono basati solo sulle nostre scelte, no? Perché una persona da solo fa poco. Il vero cambiamento lo fanno in tanti. Cioè, c'è una scena bellissima, per esempio, nel cartone, nel film Nemo, no? Del pesce che si è perso nell'oceano. C'è Nemo catturato da questa rete, no? E c'è questo branco di pesci che cerca di muoversi, ognuno per conto suo, facendo la sua scelta dentro a questa rete, intrappolato, e non riescono a liberarsi. Poi Nemo dice: beh, scusate, ma se facciamo tutti la stessa scelta, cioè ci muoviamo tutti verso una direzione, magari la rompiamo questa rete, no? Quindi lei sta dicendo che gli italiani sono un po' corresponsabili di questo senso di immobilismo? No, allora, non l'italiano di per sé, cioè l'italiano poi in questa situazione storica magari, no, pensa che cosa faccio io da solo? Niente. Ed è vero, cioè da soli non si rompe la rete, bisogna fare scelte di gruppo, ma si è anche dimostrato, cioè le scelte di gruppo sono quelle che fanno il cambiamento, ma per fare una scelta di gruppo io devo essere un pochettino più sociale, no? Cioè non devo solo pensare al mio interesse, oddio, il mio singolo interesse 100% mi fa fare una scelta, e questa scelta non porta a nulla magari in Italia, in questa situazione economica, come anche dicevamo prima. Occorre fare una scelta un po' più sociale, che ci libera dalle code del traffico, ma ci libera anche dalle cattive situazioni storiche in cui magari in questo periodo siamo. Grazie professor Marchiori. Paolo Legrenzi, in ambito economico è così, anche in quello dovremmo cercare di uscire un po' dal calcolo del nostro singolo interesse. Sì, penso proprio che sia così. Io credo però che in collegamento a questo ottimo interventi che ci sono stati, questa interessante trasmissione, io credo che non si debba enfatizzare troppo la razionalità di un gruppo di specialisti, cioè di grandi scienziati, grandi tecnologi, grandi innovatori. Certo, questo è molto importante, è quello che ci fa andare avanti, però anche nella vita quotidiana, con situazioni molto semplici, si può imparare a pensare meglio, a decidere meglio, a decidere in modo più razionale, perché da un punto di vista strutturale, se noi guardiamo le tecniche con cui noi decidiamo, cioè i processi di pensiero, i processi decisionali, si può migliorare i processi decisionali senza in realtà pretendere di appartenere a queste elite di studiosi, di ricercatori e così via. Il lavoro che io cerco di fare in questi ultimi anni della mia attività scientifica non è più lavorare con gli specialisti, lavorare nei laboratori, ma cercare di spiegare che con situazioni della vita quotidiana, soprattutto le situazioni economiche, perché come è stato detto prima molto bene, in relazione ai consumatori l'aspetto economico nella vita è molto importante, si può migliorare moltissimo nel risparmio, nelle scelte di consumo e così via, cioè si può imparare a decidere meglio. Grazie anche a Paolo Legrenzi. La conclusione con la professoressa che insegna scienza delle decisioni, la invito alla rapidità, professoressa, perché abbiamo veramente poco. Perché è importante conoscere i meccanismi decisionali che ci muovono? Perché è tutto quello che abbiamo detto finora, cioè più conosciamo e più abbiamo coraggio di fare delle scelte, più abbiamo delle capacità di evitare all'interesse, di pensare ad un interesse personale, ad un guadagno personale, ma attivare meccanismi cooperativi in cui noi pensiamo al bene comune e ai beni comuni, quindi questo attiva un cambiamento. Ah, fantastico, grazie anche alla professoressa Pravettoni. Ringrazio quelli che hanno cooperato pensando al bene comune di Spunti di Vista, Massimiliano Lollis, quindi le persone che lavorano a questa trasmissione, Silvi Boccaletti, Barbara Bianchi, tutti insieme, e Carmelo Lauricella, non si può cambiare e sbagliare il cognome a questo punto, in regia. Da Irene Zerbini un saluto, ritorniamo domani con il meglio di alle 10 e poi in diretta lunedì mattina.